Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 30 gennaio 2015. Le batterie costano meno, crescono le vendite di auto elettriche. Un prezzo più basso. È bastato questo ingrediente a spingere il settore delle auto ibride ed elettriche alla conquista di crescenti quote di mercato. Tra il 2008 e il 2015 i prezzi delle batterie dei veicoli cosiddetti plug-in, quelli per cui basta una semplice presa di corrente domestica per effettuare la ricarica, sono infatti calati del 70%. Un ulteriore calo di circa il 60% è stato confermato per il prossimo quinquennio 2015-2020. Nel 2008 il pacco batterie per un'auto costava circa $12,000, ora costa $3,600 e potrebbe arrivare a $1,500 nel 2020. Fin qui la notizia del 30 gennaio 2015. Ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'annuncio di un progressivo calo dei costi delle batterie per auto è stato fatto dal segretario per l'energia degli Stati Uniti Steven Chu a margine del Salone di Detroit di quest'anno. Secondo Fabio Orecchini, docente di sistemi per l'energia e l'ambiente e coordinatore scientifico di H2 Roma, l'obiettivo è credibile. Tutti i grandi centri di ricerca mondiali, sia indipendenti, sia delle case automobilistiche, sia dei produttori di batterie, stanno lavorando oggi alla riduzione dei costi. Quindi non ci si aspettano rivoluzioni per i prossimi 5 anni sulla capacità delle batterie in termini energetici, cioè su quanti chilometri si potranno fare con le batterie, ma ci si aspetta sicuramente un grosso abbassamento dei costi a parità di capacità. I veicoli ibridi plug-in hanno al loro interno batterie non enormi, batterie sicuramente più contenute di quelle dei veicoli puramente elettrici, e quindi il loro costo può sicuramente diventare a livelli di mercato nei prossimi 5 anni. La notizia è sicuramente credibile e naturalmente ottimistica, è una sfida, ma è una sfida che farà vedere però in questo decennio l'arrivo di automobili sempre più elettrificate sulle nostre strade. Quindi col crescere dell'elettrificazione, quindi dell'importanza della trazione elettrica a bordo, poi si arriverà anche a veicoli totalmente elettrici e poi probabilmente oltre il 2020 anche a batterie di tecnologia diversa o magari a idrogeno a bordo, che permetteranno anche di fare centinaia di chilometri paragonabili a quelli delle automobili a benzina e diesel attuali con un solo pieno, cioè con una sola ricarica. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna-Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.